nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 7 marzo, il sole in regione sorta alle 6.36 e tramonterà alle 18.02. Sabato ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. La scorsa puntata vi avevamo presentato lo studio dell'ERSA sul comparto regionale della birra. Oggi è la volta dell'analisi di quello dell'itticoltura, che continua a dare buoni dati tra produzione ed export. A seguire nella rubrica del bio il lupino, che per i suoi tratti agronomici meriterebbe una reintroduzione. Il professor Roberto Zironi ci accompagnerà invece in un'analisi sensoriale dell'uva e a seguire tutti i lavori da fare in orto nel mese di marzo. La storia delle latterie sociali turnarie completa una miniserie che abbiamo dedicato a questo argomento nelle varie rubriche, mentre in quella della gastronomia è la volta del mais in cucina, che non è solo farina per far polenta. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Oltre a quello della birra, l'ERSA ha fatto uno studio anche sul settore dell'itticoltura. Come sta andando? Ne parliamo con Laura Zorati, ricercatrice dell'ERSA, che ha seguito appunto questo progetto. Da dove iniziamo? Iniziamo dall'acquacoltura, che è il settore trainante a livello regionale. Troviamo infatti che nel 2019, l'anno in cui abbiamo condotto questo studio, oltre 15.000 tonnellate di prodotto ittico sono state prodotte nella nostra regione. E come si suddivide questo? Si suddivide in una parte di acquacoltura che è preponderante e trainante rispetto al pesce pescato in mare. Troviamo infatti che abbiamo un 75% di acquacoltura che si dedica all'allevamento di pesci, un altro 15% prossimo che si dedica all'allevamento di vongole e di cozze, quindi di molluschi bivalvi, il restante 10% invece lo identifichiamo con la pesca in mare tradizionale. Siamo sempre leader nella produzione di trote? Assolutamente sì, è il settore trainante della regione e con 10.900 tonnellate prodotte nel 2019 si conferma il settore principale. E per quanto riguarda i molluschi? Nonostante ci siano delle difficoltà intrinseche nel settore dovuto a delle problematiche di mare a livello di mancanza di nutrienti, problemi climatici a cui gli allevatori devono far fronte, nonostante questo resta un comparto che a livello di acquacoltura permette di compensare la carenza di molluschi bivalvi pescati in mare. Fatturati in crescita, stagnazione, recesso? Fatturati in crescita nel 2019. Negli ultimi 5 anni abbiamo visto, dopo un anno 2016 che è stato particolarmente critico per il settore, un trend in crescita che è continuato fino appunto al 2019, dove abbiamo raggiunto gli 80 milioni di fatturato e un valore aggiunto di 40 milioni di euro. Avete dato uno sguardo, anche se solo fugace, al 2020, l'anno della pandemia. Cosa sta succedendo? Quello che si vede è che, come tutti gli altri comparti, ha avuto le sue difficoltà. A livello di raccolte di pesce in mare vediamo una sostanziale linearità con il 2019, ma c'è magari una più diversità nel tipo di pesci che sono stati pescati, magari una preferenza più verso il pesce azzurro dove è possibile pescare rispetto magari a pesce bianco che non trovava più difficoltà sui mercati per via appunto delle limitazioni del settore della ristorazione. Grado, Marano e Trieste, i tre mercati come stanno andando? Si alternano, diciamo, abbiamo due mercati, quello di Marano e di Trieste, che sebbene siano quelli che gestiscono i volumi maggiori a livello di pescato, nell'ultimo anno si sono trovati un attimino più in sofferenza con dei cali a livello di transiti. Diversamente il mercato di Grado vede un'inversione di tendenza, per cui abbiamo un incremento nei transiti di pesce. Riusciamo a fare ancora dall'export? Assolutamente sì, del fatturato oltre 50 milioni sono destinati all'export. Resta la trota, che vede un 30-40% di trote vive esportate verso Germania, Polonia e Austria, e a cui si aggiunge anche la produzione di avannotti che vengono esportati per appunto la crescita negli allevamenti di pesci. Queste insomma restano delle comunque dei punti di forza della regione. Aziende in crescita o stabili o in recesso? Piuttosto stabili, dipende un attimino dal settore che andiamo ad analizzare più nel dettaglio. Se vediamo infatti una sostanziale stabilità o crescita nell'acquacoltura, dove appunto c'è più possibilità, dall'altra vediamo una recessione, invece un continuo calo quando andiamo a vedere il numero di aziende che si occupano invece della pesca in mare. Cristina Micheloni oggi tesse le lodi del lupino, ottimo per le sue caratteristiche agronomiche, ma non di sdegnare neppure per l'alimentazione umana. Abbiamo più volte detto della necessità di incrementare la produzione di proteine vegetali e per farlo dobbiamo essere creativi e diversificare. Guardando alle leguminose, piante regine quando si parla di proteine, ma non sono le uniche da mettere in campo, un po' di considerazione la merita il lupino, attualmente pressoché aneddotico per i friulani, almeno quelli che passano sul Quindi Browlings. Esso infatti è secondo solo alla soia in termini di quantità e qualità di proteine ottenuta e possiede alcuni tratti agronomici che, per areali specifici, renderebbero più che interessante la reintroduzione. Parliamo del lupino bianco, ovvero il lupino albus, ma anche potenzialmente del lupino azzurro, quello angustifolius. I lupini sono utili e interessanti sia come alimento umano che come base per l'allevamento zootecnico. In tutti i casi va considerato il contenuto di alcaloidi del seme che rende necessario un lungo ammollo prima dell'uso. È da dire però che nell'ultimo decennio si sono rese disponibili delle varietà con ridottissimo contenuto di queste sostanze, cosa che riduce di molto il gusto amaro e ne semplifica anche l'uso. Avrete visto infatti che ci sono già in commercio sia delle farine di lupino che del tempè o altri preparati per uso umano, dove tutte queste caratteristiche sono assolutamente gestite. Dal punto di vista agronomico, ma anche ecologico, ci piace un po' di più della soia perché lascia il terreno più ricco di azoto, quindi disponibile per le colture successive, e la fioritura è di grande interesse per le api e per i pronubi in generale. Si può seminare sia in autunno che in primavera, anche molto presto perché resiste molto bene alle basse temperature. Però è molto delicato in termini di terreno, non sopporta il terreno calcareo. Per farla facile diciamo che i terreni con un pH sopra il 7 gli sono ostici. Di conseguenza non sono molte le aree nella nostra regione dove può trovarsi a suo agio, ma ci sono. Anche sulla tolleranza ai terreni con più alto calcare, comunque la selezione varietale sta cambiando di non poco la situazione e rendendo via via disponibili sementi che resistono anche a terreni più calcarei. Altra sensibilità da considerare è quella all'antracnosi, su cui la scelta della varietà e del seme sano, è un patogeno infatti che si trasmette via seme, sono fondamentali. Per ottenere delle buone produzioni è necessaria la collaborazione dello specifico batterio azoto fissatore, che nel caso del lupino è un Bradyrhizobium. Si può acquistare e distribuire alla semina e dopo qualche anno non è più nemmeno necessario aggiungerlo. Per gestire le malerbe la falsa semina è una ottima strategia, in alternativa si può strigliare entro 3 giorni dalla semina, però bisogna stare attenti a non danneggiare il seme. Si può anche sarchiare in modo molto simile alla soia, in questo caso meglio nei pomeriggi quando la pianta perde turgore a causa del calore e della presenza del sole e così si riduce il rischio di danneggiarla. Qualche informazione in più alla pagina Facebook della trasmissione. Per la rubrica del vino, oggi il professor Roberto Zironi ci conduce nella valutazione sensoriale dell'uva. Se proseguiamo nella valutazione sensoriale dell'uva, possiamo osservare che, da un punto di vista olfattivo, non ci sono, salvo la eccezione, delle particolari componenti. E quindi poniamo all'interno del nostro cavorale l'acino d'uva. Schiacciamo la frutto e cosa verifichiamo? La comparsa delle componenti dolci e delle componenti acide, in diverso rapporto a seconda del momento della maturazione. Ma se mastichiamo il prodotto, interessando sia la buccia che il seme, ecco che ad un certo punto compaiono delle sensazioni amare e delle note di astringenza, di rovidità. Queste componenti amare e di astringenza sono determinate dalle stesse sostanze che abbiamo visto essere responsabili di parte delle componenti coloranti. In particolare la buccia e il seme contiene una miscela di monomeri, oligomeri e polimeri di queste sostanze fenoliche che sono responsabili delle diverse sensazioni gustative e tattili in bocca. L'amaro diminuisce con la dimensione dei polimeri, quindi da monomeri a polimeri, mentre invece la stringenza raggiunge un picco intorno a 3-4 unità monomeriche per poi calare. Ma cos'è la stringenza? La stringenza è un'interazione tra queste molecole e le proteine della saliva. Quindi la bocca perde lubrificazione, diventa ruvida, ecco quindi il carattere di astringenza. Quindi i composti fenolici sono in grado di interagire con proteine, enzimi e quindi a dare il carattere che viene definito tannico. Tannico che sta a indicare anche l'interazione industriale che si ha ad esempio tra proteine della pelle e tannini per la loro concia, per rendere le proteine, quindi le pelli, imputrescibili. Nel corso della maturazione dell'uva abbiamo un'evoluzione delle componenti polifenoliche e quindi abbiamo un'evoluzione delle componenti tanniche e delle caratteristiche amare. Qual è il compito dell'enologo? Quello di trovare il giusto momento della raccolta dell'uva quando queste componenti tanniche sono più gradevoli o potremmo dire meno impattanti da un punto di vista sensoriale. Questo si determina col procedere delle maturazioni. All'inizio abbiamo dei tannini aggressivi, ruvidi, verdi, definiti in taluni casi. Col procedere della maturazione, e quindi quando le uve sono in grado di riprodursi perché è maturato il seme, l'estratto della buccia e di parte del seme che si attua durante la vinificazione avrà dei tannini molto più gradevoli che addirittura vengono definiti vellutati. Sara Bosco per la rubrica dell'orticoltura ci dà alcuni consigli sui lavori da fare nel mese di marzo. Il mese di marzo ormai è arrivato e con sé si iniziano a intravedere delle belle giornate con delle temperature miti. Non bisogna però scordarsi che il freddo può sempre tornare, anche se in dosi minime. Perciò è molto importante tenere sempre a portata di mano del tessuto no tessuto, per poter coprire il terreno in cui si è provveduta la semina o al trapianto di giovani colture. Prima di parlare di cosa seminare, è indispensabile che il terreno sia preparato, eliminando le erbe infestanti che sono cresciute in questi mesi e concimando la terra. Queste operazioni vanno eseguite prima, meglio ancora se a distanza di qualche settimana, dalla messa a dimora delle colture, perché permette una miglior predisposizione del terreno ad ospitarle. In questo periodo, in pieno campo, è possibile seminare la cipolla, l'aglio, i piselli, le patate e gli asparagi, mentre è preferibile seminare ancora in ambiente protetto tutte le piante a foglia, come radicchi, lattughe, rucola, prezzemolo, perché potrebbero ancora essere danneggiate dalle basse temperature delle ore serali. Inoltre, un'altra operazione che si può effettuare in questo momento dell'anno è la semina del sovescio, costituito ad esempio da trifoglio o senape. Il sovescio è una pratica molto impiegata in orticoltura, che permette di far riposare e nutrire il terreno mantenendo una copertura continua e che permette di evitare perciò l'erosione. Come detto prima, tra gli ortaggi da poter seminare troviamo i piselli. Questa coltura appartiene alla famiglia delle leguminose e può essere seminata sia in primavera che in autunno, in quanto non teme le basse temperature. I semi sono di buone dimensioni e, una volta seminati, impiegano circa 10 giorni per far emergere la plantula. Vengono seminati a circa 20 cm di distanza tra loro, in fila distante 60-70 cm, per quanto riguarda le varietà a crescita determinata. Mentre per quelle rampicanti è necessario porre un sostegno alle plantule e aumentare la distanza tra le file. Hanno un ciclo di sviluppo di circa 80-120 giorni. Sono piante poco esigenti, ma tra le operazioni più importanti c'è l'irrigazione, in particolare quando i bacelli si sono formati e i semi devono accrescersi. Con queste semplici accortezze sono ortaggi che possono essere coltivati nei nostri orti, garantendo un buon raccolto. Continuano i nostri contributi sulle latterie sociali turnari, una realtà che ha segnato la storia dell'allevamento in Friuli Venezia Giulia, come ci spiega in questo excursus storico Adriano Del Fabbro. Le latterie sociali turnari rappresentano la più antica forma di cooperazione agroalimentare d'Italia e di conseguenza del Friuli Venezia Giulia. Nel 1880, infatti, a Collina di Forniavoltri nacque la prima struttura del genere. Seguendo i suggerimenti del maestro Eugenio Caneva, a fondarla furono 38 soci che, tutti insieme, disponevano di 82 vacche e conferivano al caseificio una media giornaliera di latte leggermente inferiore ai 100 kg. Prese così avvio una formula imprenditoriale di successo, se si pensa che nel 1960 in regione erano attivi 652 caseifici sociali cooperativi, più di una latteria per ogni campanile. Correndo avanti nel tempo, dunque, si capisce come l'importanza che il comparto lattiero caseario cooperativo assunse in regione fu notevole. A metà degli anni 60 il Friuli Venezia Giulia era al quinto posto nella graduatoria delle regioni italiane per la produzione di latte e al secondo posto per l'incidenza rivestita nel settore del movimento cooperativo, in quanto numero di sodalizi attivi è addirittura al primo posto sia per quantità di latte conferita negli impianti collettivi, pari al 64% della produzione complessiva contro il 62% dell'Emilia Romagna, che per la quantità di latte lavorato dagli stessi, 88% rispetto all'82% sempre dell'Emilia Romagna. In quegli anni la maggior parte delle latterie aveva ancora un funzionamento turnario, con un oggetto sociale dedicato alla trasformazione del latte e non alla commercializzazione dei prodotti ottenuti. La produzione del formaggio era molto diffusa e frazionata. Nel 1967 in 27 comuni erano attive ben 4 latterie frazionali, in 36 3. Nel 1980 fu costituito il Consorzio regionale del formaggio Montasio con l'obiettivo di difenderne la produzione, l'uso della denominazione, migliorare la qualità del prodotto e valorizzare la diffusione commerciale. Nel 1986 arrivò la DOC e nel 1996 la DOP, condivisa con alcune province venete. Oggi, oltre alle 5-6 latterie turnarie nella nostra regione, Trieste esclusa, sono ancora attivi una ventina di caseifici cooperativi che producono soprattutto Montasio DOP e latteria dalle classiche 3 stagionature. Quest'ultimo formaggio è inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Friuli Venezia Giulia dall'anno 2000. Dal 2013 il formaggio latteria del caseificio turnario di Campolessi è entrato nella grande famiglia dei presidi Slow Food. È riduttivo pensare al mais in cucina relegandolo solo alla produzione della polenta. Sentirete da Roberto Zottar gli altri possibili utilizzi con una succulenta ricetta finale. La polenta in regione è condita in ogni modo e fantasia, fino ad arrivare ai vari toch di burro cotto, strutto, lardo, elaborati con farina di mais e latte o vegetali. Con poco zucchero e chicchi di mais, ma anche con quelli di grano saraceno, si facevano lis sioris o schlopez, che oggi forse conosciamo solo con il nome americano di popcorn. Gianni Cosetti ricordava che la nonna di Quinis gli riempiva le tasche di pestadice, cioè delle giuggiolette fatte con chicchi di gran turco saltati in padella e poi caldi pestati in un mortaio con lo zucchero. Un tempo la farina di mais veniva usata anche per cuocere il burro e farlo conservare più a lungo. Per un chilo di burro si usavano 2 etti di farina di polenta. Il burro era cotto quando la farina diventava color oro antico. Dopo la cottura il tutto veniva fatto raffreddare, la parte liquida, l'ont, che oggi chiameremo burro chiarificato, veniva messo in un apposito contenitore, la pierre d'alont, mentre la farina, abbrustolita e un po' così arricchita, diventava un importante ingrediente per una torta, la pete di sork. L'arcaica peta, nome che probabilmente deriva da petà, cioè schiacciare, in origine era una schiacciata di sola farina di segala, poi di farine di gran turco e grano miscelate, mai lievitata, magari con fettine di lops, cioè mele selvatiche, fichi secchi o qualche cicciola di maiale e uvette. Veniva avvolta in foglie di verza e cotta sotto la cenere. Questa versione, indubbiamente, poteva risultare un po' pesante, tanto che Piero Adami ricordava che bisognava avere stomi fuart par di ghierile. Gianni Cosetti ci ha lasciato la ricetta di una pete di sork cotta al forno. Per realizzarla dobbiamo partire da 200 g di farina di mais cotta nel burro e raffreddata. A questa si uniscono 150 g di farina di mais cruda e 150 di farina 00. Mescolando unite un uovo, 150 g di zucchero, un pizzico di sale, un bicchiere di latte tiepido e la scorza grattugiata di un limone. Amalgamate fino a ottenere un composto morbido e omogeneo, versate in una tortiera imburrata da 26 cm e cospargete con 50 g di pan grattato mescolato con un cucchiaio di zucchero e cuocete per 40 minuti in forno a 150 gradi. Si serve fredda. Buon appetito! E come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli ce lo racconta Amos D'Antoni. Mercato debole con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,70 e 21,90 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento tra 22,20 e 22,50. L'orzo con peso specifico 60 a 63 tra 19,40 e 19,90. E la soia tra 50 e 70 e 51 euro al quintale. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 5,50 euro e la soia di 15,50 euro al quintale. Passando ai bovini da macello, si rileva una leggera ripresa nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,20 e 2,50 euro al chilo, IVA esclusa. Quelle di seconda tra 1,50 e 2,20. Pure il mercato dei vitelli da ristallo conferma quotazioni rivalutative e l'ultimo andamento accerta i blu belga maschi pagati tra 5,80 e 6,30 euro al chilo, IVA compresa. I pezzati rossi tra 4,40 e 4,80. I frisoni tra 1,30 e 1,60. E i bruni tra 1,20 e 1,40. Nel comparto suinicolo continuano spunti di ripresa e il valore della tondola di 30 kg franco partenza si fissa a 3,21 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati a 1,35 il chilo. Stabilità nel settore del prosciutto di San Daniele, che con osso viene pagato tra 9,05 e 13,75 euro il chilo, quello di Sossato tra 12,05 e 17,15. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano mercati fiacchi con prezzi stabili. I polli a terra vengono pagati tra 0,97 e 0,99 euro al chilo, IVA esclusa. Le anatre tra 2,35 e 2,39, le faraone tra 2,32 e 2,42, i tacchini maschi tra 1,29 e 1,31, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,03 e 2,09 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,80 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante e più un breve contributo di climatologia locale. Il mese di febbraio, da poco concluso, dopo le intense precipitazioni accompagnate da venti miti meridionali della prima decade, è stato più asciutto. Si è verificato un po' in ritardo il classico periodo secco che caratterizza quasi sempre il cuore dell'inverno. Le temperature sono state molto altalenanti. In pochi giorni siamo passati da un'ondata di gelo fra l'11 e il 17 con temperature sotto la media di 5-6 gradi, a un periodo poi eccezionalmente mite, fra il 20 e il 28, con valori medi anche di 10 gradi sopra la norma. Ancora più eclatanti le temperature massime del 24 febbraio, hanno toccato i 25-26 gradi in pianure sul Carso, che rappresentano dei record assoluti almeno dal 1930. Questi valori sono stati di 15-16 gradi oltre il normale. La media mensile in regione quindi è risultata di circa 2 gradi sopra la media degli ultimi 30 anni, un valore significativamente elevato. Dopo il passaggio di un moderato fronte venerdì sera, che ha interrotto l'assenza di precipitazioni sulla fascia orientale della regione, ora l'afflusso di correnti nord-occidentali in quota favorirà tempo abbastanza soleggiato, almeno fino a mercoledì. Avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso variabile. Martedì ritornerà a soffiare bora moderata sulla costa e le temperature rimarranno stazionarie con valori intorno alla media, le minime fra i meno 2 e più 2 in pianura, fra 1 e 5 sulla costa. Le temperature massime fra gli 11 e i 14 gradi su tutte le zone di pianura e costa. Lo zero termico resterà attorno ai 1200-1500 metri di quota circa. Nella seconda parte della settimana, l'avvicinamento delle depressioni atlantiche alle Alpi probabilmente porterà maggiore instabilità, con nuvolosità variabile, rovesci sparsi e nevicate in montagna oltre gli 800.000 metri. E un possibile ulteriore peggioramento nel prossimo fine settimana. Ma essendo la circolazione atmosferica molto dinamica, è oltremodo opportuno seguire via via l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. A San Tomas il freddo va in pace, ovvero a San Tomaso il 7 marzo il freddo se ne va in pace. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.